Se ti va, noi volevamo iniziare questo collegamento con te, facendoci un po' spiegare anche come sei arrivato lì, Sì, sì. come ti hanno portato lì dentro le gabbie del CIE di Ponte Galeria. Allora, io stavo nei domiciliari, ho finito i domiciliari, dopo un paio di giorni sono venuti la polizia a cercarmi e mi hanno portato qui. Però qui ho trovato una situazione abbastanza, posso dire, crudele, che per me non è un centro d'accoglienza, non è un CIE. Per me questo lo vedo come un campo di concentramento, di come ci trattano qui, come ho visto io come trattano le persone, gli ospiti qui. Perché la prima volta appena arrivi qui fanno in modo che ti negano la tua difesa in modo intelligente, cioè o quando arrivi il primo giorno. Non ti fanno vedere il tuo avvocato, tu nomini un avvocato, però non lo vedi soltanto davanti al giudice. In questo caso il tuo avvocato non sa niente della tua storia, non sa niente. Cosa fanno? Il giudice, in questo caso cosa fa? Convalida il trattenimento e rimane qui per 30 giorni. Detto questo, tu quando vedi il Tutto tuo questo avvocato. è per far arricchire ovviamente chi gestisce questi centri come la cooperativa Auxilium. A Appunto, loro delle questo. storie personali conta poco e fanno in Sì. modo di tenere più gente possibile per arricchirsi sulle spalle dei detenuti. C'era gente che c'ha i figli, c'era gente che è sposata con cittadini italiani, c'è. E nonostante tutto questo, loro cercano in qualche modo di trattenerti qui dentro per un periodo che non so il perché non ti dicono mai. E se tu magari ti serve una cosa, se sta male, vai in infermeria, cioè, non è che ti danno le medicine adeguate. No, ti danno sempre la stessa cosa, la stessa crema, le stesse pasticche e niente. Tu devi subire e soffri in silenzio e basta. Non hai il diritto di protestare. Se protesti sei finito, proprio. Ti mettono nella lista nera. Sappiamo per esempio che come in carcere c'è una distribuzione di psicofarmaci come fossero appunto caramelle, no? Usate un po' per ogni cosa. È ancora così lì dentro? Anche qui fanno la stessa cosa, anzi qui fanno di peggio, qui fanno peggio. Tipo quando vai, sì, sanno che una persona magari un po' che usa l'aggressione, aggressiva, una persona che ha un carattere, è normale che una persona stressata tra gli sbarri prima o poi scoppia. Loro ti fanno delle punture che ti mandano in piedi, che non capisci più niente, ti porta, ti metti nel tuo letto e ti vedi fra una giornata intera, non sai cosa successe. Ti picchiano anche, c'è stato un ragazzo qua che l'hanno massacrato di botte. C'è la gente Ma qua chi l'ha qui, massacrato di botte? c'è le agenti di polizia. La Lui ha polizia. rifiutato perché, sì, l'hanno massacrato di botte, l'hanno minacciato, gli ho detto guarda, si denunci, di qua non esci mai. Appunto, gli ho detto, guarda, dai, ci muoviamo e vediamo di denunciare questo comportamento. Mi ha detto, no, non posso. Questa faccenda delle punture che fanno che il medico di servizio dentro il CIE di Ponte Galeria ha già usato in passato, addirittura di fronte a forti proteste aveva promesso di smettere con queste punture che tramortiscono e lasciano la persona totalmente incapace di reagire ed è capace solo di dormire una persona che viene trattata con questi psicofarmaci. Continuano? Sì, certo, io addirittura io ho avuto una confidenza con un operatore di Auxilium, praticamente la cooperativa che gestisce il centro. Mi ha detto, cioè mi ha raccontato delle cose, guarda, orribili. Mi ha detto, guarda, il medico stesso gli ha confidato che subisce delle pressioni da parte della polizia per comportarsi in questo modo. Lui ha Ma un dentro me, macellaio anche lui. cioè, perché il mio, un medico che deve avere una coscienza professionale. Arriva al punto che ammette queste cose qua, che la polizia gli dice devi fare questo, questo e questo. Cioè, per me, oh, guarda, non è, in un paese civile queste cose non dovrebbero accadere mai. Allora, ascolta, di fronte a questi trattamenti e di fronte anche alle espulsioni, alle deportazioni che continuano, sappiamo che ci sono diverse forme di protesta e che qualcuno è riuscito a bloccare l'espulsione, anche se ti ammanettano di notte, e qualcuno ha provato a scappare dal centro. L'abbiamo saputo attraverso la manifestazione che c'è stata domenica lì fuori. Tu sai qualcosa di questa evasione o il tentativo di scappare dalle gabbie di quel lager? E qui la gente talmente disperata che cerca di scappare in qualsiasi modo. Sono delle persone che magari sono scappate dall'ospedale perché non ce la fanno più tornare qui. C'è la gente che, però dico per scappare da qua dal centro difficile, ci sono le forze di ordine, polizia, carabinieri, finanzieri, qua ci sono i cani, qua per scappare di qua. Difficili, difficili proprio. E se ti dicono che hai tentato di scappare, ti massacrano di botte, ti mettono in isolamento, finché ti rendono come, ti fanno diventare come un cane che non riesce più a stare in piedi. Qua ci trattano come i nazisti. Questi qua non sono italiani, questi sono proprio nazisti. Se protesti, tu non hai il diritto di protestare, magari se tu protesti, ti fanno che magari se il giudice viene a sapere queste cose, magari ti lascia andare via, loro ti prendono, ti mettono in un aereo, se protesti rifiuti di salire, ti portano di nuovo in centro, ti fanno una puntura che è addormente, che non capisci più niente, ti svegli nel tuo paese. Ignorando tutta la tua situazione che hai lasciato alle spalle, se hai una moglie, hai dei figli, hai non so, la tua casa, loro non guardano queste cose. E da un'altra parte, anche i giudici, in qualche caso, sono complici della polizia. Addirittura i giudici che devono essere proprio parziali, cioè non devono fare da questa parte, devono giudicare il caso. Invece loro addirittura a volte diventano complici. E un'altra cosa, loro, i poliziotti che fanno l'accusa, che presentano l'accusa nel processo, non sono pubblici ministeri, non hanno neanche la laurea, sono poliziotti normali, vengono a giocare, giocano con la libertà delle persone come se fossero animali. E Certo, questa è cosa. tutto un sistema di esclusione e di brutalità che Sì. vede complici i giudici, così come la polizia, così come le cooperative che gestiscono i centri. Addirittura è stato un caso qui che un ragazzo, il giudice gli ha chiesto la convivenza con sua moglie italiana. Il giudice gli ha chiesto se aveva la convivenza, gli ha detto di sì. Cosa hanno fatto questi poliziotti? Hanno chiamato il comune della residenza dove si è sposato con la moglie, gli hanno detto guai se mandi qualche carta, giusto per trattenerlo qui. Infatti lui ha chiamato il comune gli ha detto guarda, noi ci è arrivata una comunicazione che non possiamo produrre nessuna carta, non possiamo dare nessuna carta. E si trova ancora qui una persona che è coniugata con un'altra persona italiana, non vedo un motivo perché si trova qui. E un'altra cosa, se un giudice ti dà la sospensiva, il tuo provvedimento è sospeso, che non può essere espulso, questi qua, perché la Cassazione stabilisce che una volta hai la sospensiva, tu devi uscire subito, immediatamente dal CIE. E questi cosa fanno? Hai la sospensiva, ti trattengono qui. E non puoi stare, loro fanno quello che vogliono. tu hai la sospensiva. Questo si chiama, questo è un reato, questo è un sequestro di persona. Da una parte che non hanno rispettato il parere di un giudice, una sentenza di un giudice, un'altra che ti trattengono qui come un animale, sei indifeso, non hai il diritto di difesa, anche gli avvocati, il potere degli avvocati qui è limitato, non possono fare niente. Vengono, stanno lì, parla quanto vuole, alla fine non si può fare niente. Le associazioni umanitarie, tipo quei diritti umani, quelli non li fanno entrare, fanno le richieste per entrare in CE, per sentire le persone, per parlare con le persone, non li fanno entrare solo quelle, i volontari, quelli che non ti fanno niente, non ti possono aiutare, magari ti dicono se vuoi un avvocato, ti do un numero, chiamalo e vedi se ti aiuta, e niente.